Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Rispondere a questa domanda del pittore dette a K addirittura gioia, specie perché rispondeva a un privato. Non comportava cioè nessuna responsabilità. Nessuno lo aveva ancora interrogato in modo tanto aperto. Per assaporare questa gioia, K poi aggiunse: «Sono del tutto innocente». «Ah», disse il pittore. Chinò la testa e parve riflettere. Improvvisamente risollevò la testa e disse: «Se lei è innocente, allora la causa è semplicissima». Lo sguardo di K si oscurò. Il presunto confidente del tribunale parlava come un bambino ignaro. «La mia innocenza non semplifica la causa», disse K. Nonostante tutto dovette sorridere, scuotendo piano la testa. «Bisogna considerare tutte le sottigliezze in cui il tribunale si perde, e alla fine tira fuori da qualche parte in cui prima non era nulla una colpa grave». «Sì, sì, certo», disse il pittore, come se K disturbasse senza ragione il suo ragionamento. «Ma lei non è innocente». «Sì», disse K. «È questo che conta», disse il pittore. Le obiezioni non facevano presa su di lui, e nonostante la sua risolutezza, non era chiaro se parlasse per convinzione o soltanto per indifferenza. K volle sincerarsi anzitutto di questo, e perciò disse: «Lei conosce certo il tribunale meglio di me. Io non ne so molto più di quanto ne ho sentito dire da persone assai diverse. Ma queste erano tutte d'accordo che non vengono sporte accuse alla leggera e che il tribunale, quando accusa, è fermamente convinto della colpa dell'accusato e solo a fatica può essere smosso da tale convinzione». «A fatica? Il tribunale non si lascia mai smuovere. Se dipingessi qui su una tela tutti i giudici, uno dopo l'altro, e lei si difendesse davanti a questa tela, avrebbe maggior successo che non davanti al vero tribunale». «Sì», disse K tra sé, e dimenticò che aveva voluto soltanto sondare il pittore. Una ragazzina ricominciò a chiedere dietro la porta: «Titorelli, se ne andrà presto quello?» «Zitte!» gridò il pittore verso la porta. «Non vedete che sto parlando con questo signore?» Ma la ragazzina non fu soddisfatta e chiese ancora: «Gli farai il ritratto?» Il pittore non rispose, quella soggiunse: «Non glielo fare, è così brutto!» Seguì un brusio confuso di esclamazioni consenzienti. Il pittore fece un salto verso la porta, la socchiuse, si vedevano le mani giunte delle ragazzine che si tendevano supplichevoli, e disse: «Se non state buone, vi butto tutte dalle scale, Sedetevi sui gradini e state quiete!» Quelle non dovettero obbedirlo subito, perché fu costretto a intimare: «Sui gradini!» Solo allora ci fu silenzio. «Mi scusi», disse il pittore tornando verso K. Questi non s'era neppure voltato in direzione della porta. Aveva lasciato decidere al pittore se e come proteggerlo. Rimase immobile anche quando il pittore si chinò su di lui e gli mormorò in un orecchio, per non essere sentito dal di fuori: «Anche queste ragazzine fanno parte del tribunale». «Come?» chiese K. Ritrasse la testa da una parte e fissò il pittore. Ma questo sedette di nuovo sulla sua seggiola e disse, metà per scherzo e metà come spiegazione: «Tutto fa parte del tribunale». «Non me ne ero ancora accorto», disse K brevemente. La riflessione di portata generale del pittore toglieva ogni carattere inquietante all'accenno sulle ragazzine. K continuò tuttavia a fissare per un po' la porta fuori della quale le ragazzine sedevano ora in silenzio sui gradini. Solo una aveva infilato un filo di paglia in una fessura tra le tavole e lo faceva andare adagio in su e in giù. «Lei non deve avere ancora una visione d'insieme del tribunale», disse il pittore. Ora aveva allargato le gambe e batteva le punte dei piedi sul pavimento. «Tuttavia, visto che è innocente, non ne avrà neppure bisogno. Basterò io a levarla dagli impicci». «Come farà?» chiese K. «Mi ha appena detto lei stesso che il tribunale è del tutto inaccessibile alle prove». «Inaccessibile solo a quelle prove che si adducono davanti al tribunale», disse il pittore alzando l'indice, come se a K fosse sfuggita una sottile distinzione. Ma le cose vanno altrimenti quando si fanno tentativi di questo genere dietro le spalle del pubblico tribunale, cioè nelle camere di consiglio, nei corridoi, o per esempio anche qui, nello studio. Quello che il pittore adesso diceva non pareva più a Cappa così incredibile. Concordava, anzi, in gran parte con quello che Cappa aveva sentito anche da altre persone. Lasciava persino ben sperare. Se i giudici si potevano davvero manovrare con tanta facilità mediante relazioni personali, come l'avvocato aveva detto, i rapporti del pittore con quei giudici vanitosi erano particolarmente importanti e da non sottovalutare in nessun modo. Allora il pittore rientrava benissimo nella cerchia di amici che Cappa a poco stava raccogliendo intorno a sé. Una volta in banca avevano lodato la sua capacità organizzativa. Qui, dove poteva fare assegnamento solo su se stesso, si presentava una buona occasione per metterla davvero alla prova. Il pittore notò l'effetto che la sua spiegazione aveva fatto su Cappa. Poi disse con una certa preoccupazione: «Non si è accorto che parlo quasi come un giurista? I contatti continui con gli uomini del tribunale tanto hanno potuto su di me. Naturalmente ne ricavo un grande profitto, ma l'ispirazione artistica in buona parte si perde». «Come entrò in rapporto la prima volta con i giudici?» chiese Cappa. Voleva conquistare anzitutto la fiducia del pittore, prima di prenderlo addirittura al suo servizio. «In modo molto semplice», disse il pittore. «Questo rapporto l'ho ereditato. Già mio padre era pittore del tribunale. È un posto che si eredita sempre. Gente nuova per questo non serve. Per dipingere i vari gradi dei funzionari sono stabilite norme così varie, complesse e soprattutto segrete, che nessuno le conosce fuori della cerchia di determinate famiglie. Lì, nel cassetto, per esempio, ho gli appunti di mio padre che non faccio vedere a nessuno. Ma solo chi li conosce è abilitato a dipingere giudici. Anche se li perdessi, mi rimarrebbero però ancora tante regole che io solo porto in testa. Nessuno potrebbe contendermi il posto. Ogni giudice vuole essere dipinto come erano stati dipinti i grandi, antichi giudici. E questo so farlo solo io». «È invidiabile», disse Cappa, che pensava alla sua posizione nella banca. «La sua posizione è dunque irremovibile?» «Sì, irremovibile», disse il pittore alzando con orgoglio le spalle. «Per questo posso anche permettermi di aiutare ogni tanto un povero diavolo che ha un processo». «E come fa?» chiese Cappa, quasi non fosse lui che il pittore aveva appena chiamato un povero diavolo. Il pittore non si fece però distrarre, ma disse: «Nel caso suo, per esempio, visto che è del tutto innocente, mi comporterò in questo modo. K cominciò a infastidirsi per la menzione tanto frequente della sua innocenza. A volte gli sembrava che il pittore con tali osservazioni considerasse l'esito favorevole del processo come premessa del suo aiuto, il quale, per ciò stesso, naturalmente, veniva a cadere. Ma nonostante questi dubbi, K si dominò e non interruppe il pittore. All'aiuto del pittore non voleva rinunciare, su questo era deciso. E poi tale aiuto non gli sembrava più problematico di quello dell'avvocato. K lo preferiva anzi di molto a quello, perché gli veniva offerto con più ingenuità e franchezza. Il pittore aveva accostato la sua seggiola al letto e continuò a voce bassa. «Ho dimenticato di chiederle, anzitutto, che specie di liberazione lei preferisce. Ci sono tre possibilità, cioè l'assoluzione reale, l'assoluzione apparente e la procrastinazione. La soluzione reale è naturalmente la migliore, solo che io non ho il minimo influsso su questa forma risolutiva. Per quanto ne so, non c'è una sola persona che ha influsso sulla soluzione reale. Qui, è probabile, conta soltanto l'innocenza dell'imputato. Poiché lei è innocente, potrebbe veramente affidarsi soltanto alla sua innocenza. Ma allora non ha bisogno né di me, né di qualsiasi altro aiuto. L'ordine di questa esposizione dapprima sbalordì K, ma poi questi disse a voce bassa come il pittore: «Credo che lei si contraddica». «E come?» chiese paziente il pittore, buttandosi all'indietro con un sorriso. Questo sorriso destò in K l'impressione che l'importante ora fosse scoprire contraddizioni non nelle parole del pittore, ma nello stesso procedimento giudiziario. Tuttavia non si tirò indietro e disse: «Prima ho osservato che il tribunale è inaccessibile alle prove. Poi ha limitato ciò al tribunale pubblico. E ora arriva a dire che l'innocente non ha bisogno di nessun aiuto davanti al tribunale. Questa è già una contraddizione. Ma lei prima ha anche detto che i giudici si possono influenzare personalmente, mentre ora nega che la soluzione reale, come la chiama, si possa mai ottenere mediante influsso personale. Questa è la seconda contraddizione». «Queste contraddizioni sono facili da spiegare», disse il pittore. «Qui si parla di due cose diverse, di quello che è nella legge e di quello che io ho imparato personalmente. Lei non deve confondere. Nella legge, che d'altronde io non ho letto, da una parte naturalmente c'è che l'innocente viene assolto, ma da un'altra parte non c'è che i giudici possono essere influenzati. Ma io ho fatto esperienza proprio del contrario. Non conosco nessuna soluzione reale, ma so di molte influenze esercitate. Naturalmente è possibile che in tutti i casi a me noti non fosse nessuno innocente. Ma questo non è inverosimile? In tanti casi neppure un innocente. Già da bambino ascoltavo attento il babbo quando in casa parlava di processi. Anche i giudici che venivano nel suo studio parlavano del tribunale. Nelle nostre cerchie non si parla d'altro. Appena ebbi la possibilità di andare da solo in tribunale, ne approfittai. Ho ascoltato innumerevoli processi in fasi importanti. Li ho seguiti fin dove sono visibili e, debbo ammetterlo, non ho mai saputo di una soluzione reale. Neppure una soluzione, dunque, disse K, come se parlasse a se stesso e alle sue speranze. Ma questo conferma l'opinione che ho già del tribunale. Esso dunque è inutile anche da questo lato. Un solo boia potrebbe sostituire l'intero tribunale. Non deve generalizzare, disse il pittore scontento. Ho parlato soltanto delle mie esperienze. Mi sembra che basti, disse K. Oppure ha sentito parlare di assoluzioni precedenti? Tali assoluzioni, rispose il pittore, debbono esserci state, solo che è molto difficile stabilirlo. Le sentenze finali del tribunale non vengono pubblicate, non sono accessibili neppure ai giudici, quindi su antichi casi giudiziari si sono conservate soltanto leggende. Tuttavia queste, e persino nella maggior parte, parlano di assoluzioni reali. Uno ci può credere, ma non offrono prove. Ciò nonostante non sono da trascurare del tutto, una parte di verità la contengono, e poi sono molto belle. Ho persino dipinto alcuni quadri che hanno per soggetto queste leggende. Non bastano delle leggende a farmi cambiare opinione, disse K. Davanti al tribunale non ci si può certo richiamare a tali leggende, no? Il pittore rise. No, non si può, disse. Allora è inutile parlarne, disse K. Per il momento voleva accogliere tutte le opinioni del pittore, anche quando le giudicava inverosimili e in contrasto con altre notizie. Ora non aveva il tempo di verificare o di respingere tutto quello che il pittore diceva. Era già moltissimo se induceva il pittore ad aiutarlo in qualche modo, fosse pure non decisivo. Per questo disse: prescindiamo dunque dalla soluzione reale. Lei però aveva prima rammentato due altre possibilità. La soluzione apparente e la procrastinazione. Si può trattare solo di queste, disse il pittore. Ma non vuol togliersi la giacca prima che ne parliamo. Deve avere molto caldo. Sì, disse K, che fino allora aveva badato solo alle spiegazioni del pittore, ma che adesso, nel sentire ricordare il caldo, sentì il sudore colargli copioso dalla fronte. È quasi insopportabile. Thank you. Il pittore annuì, come se capisse molto bene il disagio di K. «Non si potrebbe aprire la finestra?» chiese K. «No», disse il pittore. «Si tratta di una vetrata fissa che non si può aprire». A questo punto K si accorse di aver sperato tutto il tempo che a un tratto il pittore o lui sarebbero andati alla finestra e l'avrebbero spalancata. Era disposto a inspirare persino la nebbia a bocca aperta. La sensazione di essere del tutto isolato dall'aria gli fece girare la testa. Batté lieve la mano sul piumino che aveva accanto e disse con voce debole: «È scomodo e malsano». «Ah, no», disse il pittore difendendo la finestra. «Sebbene si tratti di un vetro semplice, l'impossibilità di aprire consente di conservare il calore meglio di una doppia finestra. Se però voglio dare aria, cosa non molto necessaria, perché attraverso le fessure delle tavole l'aria passa dappertutto, posso aprire una delle porte o magari tutte e due». K, confortato un po' da questa spiegazione, si guardò intorno per trovare la seconda porta. Il pittore se ne avvide e disse: «È dietro di lei! L'ho dovuta sbarrare con il letto!» Solo a questo punto K vide la porticina nel muro. «Tutto è troppo piccolo qui per uno studio», disse il pittore, come se volesse prevenire una critica di K. «Mi sono dovuto accomodare alla meglio. Il letto davanti alla porta, naturalmente, è in una pessima posizione. Il giudice, di cui faccio adesso il ritratto, per esempio, entra sempre dalla porta vicino al letto. E io gli ho dato persino una chiave di questa porta, perché anche quando non sono in casa possa aspettarmi qui, nello studio. Ma di solito lui arriva la mattina presto, mentre io ancora dormo. Naturalmente vengo sempre scosso dal sonno più profondo quando si apre la porta accanto al letto. Lei perderebbe ogni rispetto per i giudici se sentisse le imprecazioni con cui lo ricevo quando la mattina passa sopra il mio letto. Potrei togliergli, è vero, la chiave. Ma sarebbe ancora peggio. Con un piccolo sforzo qui si possono tirar via dai cardini tutte le porte». Mentre il pittore così parlava, K rifletteva se doveva sfilarsi la giacca, ma alla fine si rese conto che se non lo faceva non sarebbe potuto rimanere lì più a lungo. Quindi si sfilò la giacca, ma la posò sulle ginocchia per poterla infilare di nuovo quando la conversazione fosse terminata. Si era appena sfilato la giacca quando una ragazzina gridò: «Sei già tolto la giacca!» E si sentì come tutte si spingevano contro le fessure per assistere allo spettacolo. «Le ragazzine credono che le farò il ritratto», disse il pittore, «e che lei si spogli per questo». «Ah», disse K, poco divertito, perché non si sentiva molto meglio di prima, sebbene adesso sedesse in maniche di camicia. Chiese, quasi imbronciato: «Come chiamava le altre due possibilità?» Aveva già dimenticato quelle espressioni. «L'assoluzione apparente e la procrastinazione», disse il pittore. «Dipende da lei quale scegliere. Con il mio aiuto può ottenerle entrambe, naturalmente non senza fatica. La differenza al riguardo è che l'assoluzione apparente richiede uno sforzo concentrato e temporaneo. La procrastinazione uno molto minore ma più continuato. Prima dunque la soluzione apparente. Nel caso lei volesse questa, su un foglio di carta io scrivo una dichiarazione della sua innocenza. Il testo di tale dichiarazione mi è stato tramandato da mio padre ed è del tutto ineccepibile. Con questa dichiarazione io farò un giro presso i giudici che conosco. Comincerò per esempio a presentare la dichiarazione al giudice che ora dipingo, stasera, quando viene per la posa. Gli metto davanti la dichiarazione, gli spiego che lei è innocente e garantisco per la sua innocenza. Non si tratta però di una garanzia solo esteriore, ma reale, vincolante». Nelle occhiate del pittore era come un rimprovero che K gli volesse imporre il peso di una simile garanzia. «Sarebbe molto gentile», disse K. Thank you.